Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Sono Francesca Romano ed insieme a Franco Cesari ed Elisa Pasquini faccio parte dell'associazione Energicamente, all'interno della quale mi occupo di Reiki, riflessologia plantare, trattamenti olistici per il benessere corporeo, anche delle donne in stato di gravidanza e filo di Bach, curando la formazione in detti campi ed effettuando trattamenti mirati. Nel ricollegarci agli argomenti affrontati nelle scorse puntate e prima di passare ad un esame specifico della tecnica di riequilibrio energetico e vibrazionale messa a punto dagli operatori di Energicamente, oggi parliamo di Reiki e del suo utilizzo in alcuni particolari settori. Che cos'è il Reiki? La fisica moderna è riuscita finalmente a spiegare il funzionamento di questa antica disciplina. È infatti ormai acclarato che tutta la materia è costituita da campi di energia, che vibrano o si propagano per onde come la luce o il suono. L'aspetto solido della materia è quindi il risultato di queste vibrazioni causate dal gioco delle forze intercorrenti tra le diverse particelle subatomiche. Ciò premesso, possiamo quindi affermare che il corpo umano, inteso in senso olistico, ovvero come un tutt'uno costituito da corpo e mente, è quindi concepibile come un insieme di energie con frequenze vibrazionali ben precise e funziona in maniera normale e fisiologica fino a quando l'interscambio di informazioni tra le diverse frequenze vibrazionali resta invariato nel suo contesto naturale. Quando invece si verifica uno squilibrio sul piano energetico, lo stesso si riflette sul funzionamento della struttura organica, portando ad una malattia o ad un blocco emozionale. La stessa cosa accade anche nei rapporti interpersonali. Può succedere infatti di accorgersi di un proprio cambiamento di umore o di una eccessiva stanchezza dopo aver frequentato persone pessimiste, oppure depresse, oppure di sentirsi rinvigoriti e felici, al contrario, quando si è in compagnia di persone positive ed allegre. Questo accade perché l'energia del gruppo ha influenzato per risonanza lo stato psicofisico del singolo. Il Reiki agisce quindi a livello energetico e di riflesso sul piano fisico ed emozionale, riportando le frequenze vibratorie dell'energia individuale, Ki, in risonanza armonica con quelle naturali proprie dell'energia vitale universale, Rei, che essendo espressione dell'assoluto, in fisica il cosiddetto campo unificato, non sono condizionabili e restano pertanto sempre armoniche. Durante un trattamento Reiki, il praticante agisce come un conduttore, o meglio come un canale di questa energia, per se stesso o per gli altri. Ogni persona è in grado di praticare Reiki, purché opportunamente formata ed addestrata. Il settore della formazione, anche in questo campo, è particolarmente caro ad Energicamente e i cui operatori hanno dedicato e dedicano un'ampia fetta dei propri studi e della propria attività in tal senso, consapevoli dell'importanza della strutturazione della stessa ai fini di un più puntuale apprendimento delle tecniche formiche. A livello informativo generale, si ricordi che sia il Reiki cosiddetto tradizionale giapponese sia il Reiki occidentale, vedremo nel corso delle successive puntate le differenze fra questi e i vari stili Reiki, presentano tre livelli di formazione, primo, secondo e terzo, master o maestro, che forniscono differenti abilità e possibilità di effettuare trattamenti. Il praticante con un primo livello di Reiki agisce normalmente su se stesso ed impiega di solito 12 o 15 posizioni delle mani, mentre il praticante con un secondo livello associa alla posizione delle mani alcuni simboli che aiutano a canalizzare e fissare l'energia oppure a trasmettere energia a distanza qualora il soggetto sia lontano. È bene specificare che nei trattamenti in presenza non è strettamente necessario il contatto delle mani con il soggetto ricevente. Poiché il Reiki infatti agisce sul campo energetico, è sufficiente avvicinare le mani al corpo di chi riceve il trattamento, in modo che fra il corpo del ricevente e dell'operatore intercorrano alcuni centimetri. Pertanto, salvo casi particolari in cui il Reiki venga abbinato ad ulteriori tecniche di riequilibrio energetico, come nel caso del protocollo creato da Energicamente, chi riceve il trattamento può rimanere vestito o essere trattato attraverso lenzuola o coperta. Ciò brevemente premesso, è nostro interesse ricordare che, secondo il National Center for Complementary and Alternative Medicine, il Reiki rientra nelle cosiddette CAM, ovvero Complementary and Alternative Medicine, ed è definito come un metodo di riequilibrio bioenergetico che può essere usato in modo complementare più che alternativo per il trattamento di un ampio spettro di patologie acute e croniche. Viene infatti utilizzato in più di 1000 ospedali nel mondo ed anche in Italia, dove se ne riscontra l'uso e dove viene infatti proposto sia negli ospedali di Milano, in alcuni ospedali di Assi e di Torino, per fare alcuni esempi. Reiki viene definito dal National Center for Complementary and Alternative Medicine come una tecnica dolce che agisce sul campo energetico umano armonizzandolo e riequilibrandolo al fine principale di ridurre stress e favorire il benessere della persona. È riscontrato dalle pubblicazioni presenti in materia che si tratta di una tecnica che non presenta controindicazioni o effetti collaterali dannosi. Non è necessario, oltretutto, che l'operatore Reiki abbia una formazione medica o fisiopatologica. Tuttavia, infermieri, medici, specialisti, fisioterapisti e massaggiatori che invece possiedono conoscenze specifiche in tal senso possono trarre dall'unione delle conoscenze un complemento per l'indagine ed il trattamento del campo energetico come supporto a terapie convenzionali e o alternative. Gli effetti fisiologici che sono stati misurati dalle ricerche condotte nel corso degli anni riguardano i risultati su test ematologici, sulla pressione sanguigna, sulla frequenza cardiaca, sulle misurazioni bioelettriche, sulla guarigione delle ferite, sull'ansia, sulla depressione, sull'umore, sullo stress, sulla neutropenia, sulla gestione del dolore, su nati prematuri anche in oncologia. In misura crescente il Reiki infatti viene impiegato negli ospedali per la sua capacità di alleviare condizioni di salute croniche, nella gestione del dolore in modo particolare, nella riduzione dello stress, nel cancro anche in pazienti pediatrici, nella medicina generale e in chirurgia, sia nelle fasi pre che post operatorie, e nel trattamento di persone affette da HIV, cioè AIDS, geriatria e lungodegenza. Accanto al trattamento dei pazienti, il Reiki si è dimostrato utile anche per il trattamento dello stesso staff ospedaliero, per autotrattamenti quindi, e per familiari dei pazienti. Nel corso delle prossime puntate saranno riportati alcuni risultati circa l'efficacia del Reiki tratti direttamente da studi condotti all'interno degli ospedali italiani in cui i trattamenti Reiki vengono praticati ed anche da PubMed, una banca dati biomedica online sviluppata dal National Center for Biotechnology Information presso la National Library of Medicine. Per il momento è tutto e nel ringraziare nuovamente Radio Big World per l'ospitalità dataci, vi invito a visitare il sito di Energicamente al www.energica-mente.it oppure la nostra pagina Facebook Energicamente Competenze per il Benessere o a contattarci ai numeri di cellulare che vi sono già stati forniti, ovvero sia il numero 329-8989-669, il numero di Franco, o al numero 339-3860-123, il numero di Elisa, oppure al 340-2345-340 per quanto mi riguarda, io sono Francesca. Vi auguro buon proseguimento e alla prossima.